Come si chiama questo pezzo? Tu... Spermatozoi escono ovunque. Soprattutto quando me lo faccio su di te. Io bianco amico. Yeah.